Radio 3 Lezioni di musica. Alessandro Solbiati. La sonata opera 120 numero 1 per clarinetto e pianoforte di Johannes Brahms. Seconda parte. Buongiorno, sono Alessandro Solbiati e continuo con voi il percorso nella meravigliosa sonata per clarinetto e pianoforte opera 120 numero 1 di Johannes Brahms. Dico soltanto alcuni elementi detti quando ho parlato del primo movimento, cioè ieri. Siamo nell'ultimissimo periodo della produzione bramsiana, siamo nel 1894, 3 anni prima della morte. Teniamo presente che siamo a 6 anni dal XX secolo e che si respirano certe arie, e comunque ho messo al centro anche la produzione per clarinetto, perché nell'ultimo Brahms esplode questo amore per il clarinetto inteso come strumento crepuscolare, sfumato, vellutato, il che è perfettamente adatto alla musica riservata e silenziosa che Brahms sta perseguendo in questo periodo. Allora, il fatto di parlare oggi sia del secondo, del terzo e del quarto movimento della sonata ha un senso soltanto se c'è un unico filo conduttore, altrimenti sarebbe una specie di cavalcata nella musica che vi servirebbe anche abbastanza poco. Qual è questo mio personale filo conduttore? Insomma, penso che sia un filo conduttore abbastanza obbligatorio. Allora, è evidente che il modello formale dell'intera sonata e comunque di questi 3 movimenti in qualche modo è preso dalla classicità, no? È la famosa corazza che Brahms si mette per apparire antico, laddove viceversa è estremamente proteso a un futuro nell'utilizzo interno di materiali tematici. E quindi il secondo tempo è effettivamente un adagio, il terzo tempo è comunque in qualche modo uno scherzo, il quarto tempo è effettivamente molto veloce. Però in qui incomincia il discorso sul ritrovamento dei fili conduttori. In realtà questi 3 movimenti, secondo, terzo e quarto, sono estremamente legati tra loro, o meglio, e sono legati al primo movimento, la cui cellula iniziale, eccetera, è poi il punto di partenza di ogni materiale tematico dell'intera sonata. Quali sono gli elementi che danno unità a questi 3 movimenti e comunque alla sonata complessiva? Beh, il primo è proprio questo, cioè che ogni cellula motivica, ogni cellula tematica è strettamente parente. Ad esempio, tutte le cellule motiviche dell'intera sonata sono in generale cellule discendenti, movimenti che vanno dall'acuto verso il grave. In secondo luogo, tutte le cellule motiviche della sonata sono fatte in intervalli molto piccoli, cioè di intervalli di seconda, che sono gli intervalli di una scala, oppure di terza, cioè l'intervallo subito un po' più grande. Abbiamo visto che il clarinetto del primo movimento esordiva con tutti gli intervalli di terza. Questo è il primo elemento che lega l'intera sonata, cioè sotterraneamente i temi sono tutti parenti stretti l'uno con l'altro. Il secondo elemento è una grande parentela armonica, e cioè molto più addirittura che in una sonata, che ne so, beethoveniana. I 4 movimenti si muovono in ambienti tonali estremamente fermi, cioè il primo movimento è in fa minore, il secondo movimento è in la bemolle maggiore, cioè il relativo, il terzo movimento anche rimane in la bemolle, il quarto movimento è in fa maggiore. Quindi ho fa, la bemolle, fa, anche con la contrapposizione minore e maggiore del primo e del quarto movimento, ma si rimane sempre nella stessa terza, diciamo, tra il fa e il la bemolle. Inoltre, i primi 3 movimenti, escludiamo per un attimo il quarto, sono legati dal fatto di essere tutti in questo clima molto crepuscolare. Insomma, il primo tempo certo non è un vero allegro di sonata, mio Dio. È estremamente moderato e sfumato. Il secondo movimento non è un adagio, è un andante, sì, è un andante un poco adagio, ma comunque è una musica che cammina un po'. E il terzo movimento è, sì, uno scherzo, ma è estremamente sfumato, lo ascolteremo dopo, addirittura poi delle parti centrali estremamente morbide, insomma non ha nulla dello scherzo, pensate allo scherzo della Nona Sinfonia di Beethoven, insomma è uno scherzo travolgente, è uno scherzo, è una danza, è una specie di Lendler, è estremamente viennese in questo caso. Quindi la parentela nel clima, sì, l'esordio invece del quarto tempo è assolutamente differente, cioè in un clima molto allegro. Partiamo dal secondo movimento e ascoltiamo queste straordinarie prime 12, anzi 13 battute. Due osservazioni, meglio tre osservazioni. La prima non è certo analitica, è mio Dio che musica straordinaria. Le altre sono un pochettino più tecniche. Guardando la cellula, parlando di cellula tematica, ci sono due cose che ci fanno subito pensare al primo tempo della sonata. Come dicevo prima, intanto il primo elemento, la prima frase del clarinetto è interamente discendente, con questi ribattuti che, come dire, che ritardano la discesa. Poi con degli ondeggiamenti. Come dire, c'è una sorta di stanchezza nella discesa, no? La seconda parte della frase ricorda abbastanza direttamente quello che era il tema del clarinetto all'inizio della sonata. Perché era fatto di terze che però si slanciavano con grandi salti. In questo caso ho questa cosa. Eccolo qua. Tra l'altro sono le stesse note, lo stesso fa, la bemolle. Grosso modo sono gli stessi salti che aveva fatto nel primo tempo, eccetera. E anche questo ondamento, questo girare intorno alle note, era poi esattamente quello della prima cellula del primo tempo. Questo è esattamente lo stesso. Questa è la prima osservazione, cioè andamento discendente e grande salto verso l'acuto che si ripiega verso il grave, sono le due cose in comune che legano l'inizio del secondo tempo e l'inizio del primo. Ma c'è poi un'osservazione da fare sull'armonia. Questa è una musica calma, naturalmente. C'è un andamento ritmico che Brahms adora, che è l'alternanza diretta all'interno delle quattro crome del due quarti, cioè se il quattro crome, è un fatto tecnico, è vero, ma se io ho questo elemento, l'ottava giusta, è 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, eccetera. Brahms adora alternare, far fare il 2 e il 3 a un'altra voce. Allora, ma che cosa succede? Succede una cosa straordinaria. Se io dovessi suonare, se io fossi stato, non sei io, se Brahms è stato un musicista di terza categoria, questa cosa l'avrebbe fatta più o meno così. Adesso Brahms non ridirebbe. Cioè, che cosa ho fatto? Ho fatto sì che la mano sinistra del pianoforte che entra nella regione grave conferma l'armonia fatta intorno da clarinetto e pianoforte, cioè questo è l'accordo e questa è una conferma, questo è un accordo e questa sarebbe una conferma. Invece lui fa una cosa di straordinaria, straordinariamente sconcertante, o meglio sbilanciante, è così sottile che ci si potrebbe anche non accorgere, cioè la mano sinistra non è inserita nell'armonia, in questa armonia, ma è nell'armonia successiva. Quello che suono adesso è già l'accordo dopo, ma quello che suono adesso è già l'accordo dopo. E anche adesso. Cioè, la mano sinistra smentisce l'armonia in cui è inserita e anticipa la successiva. Ne deriva un andamento che è tutto proteso in avanti, perché l'accordo così calmo dato in battere è smentito dalla risonanza del basso del pianoforte. Il basso del pianoforte anticipa, la battuta si sposta. Perché lo sto dicendo con tanta foga, diciamo? Perché qui c'è una dicotomia, un'ambiguità estremamente, estremamente accattivante, cioè in Schumann a inquietudine della musica segue inquietudine dell'armonia. In questo caso a calma della musica segue inquietudine dell'armonia, cioè una musica estremamente calma, ma se abbiamo le orecchie buone e ascoltiamo bene, ci accorgiamo che dentro quello che si muove armonicamente non è così statico. Vi devo dire, infine, che in questo calmissimo tema in La bemolle maggiore, l'unico accordo di La bemolle maggiore è il primo. Questo tema dura almeno 30 secondi e l'accordo di tonica non torna mai più. Forse l'ho fatta troppo lunga su questo elemento, ma era molto importante. Ascoltiamo subito un secondo elemento, l'elemento B di questo tempo lento. Una piccolissima osservazione soltanto, sembra un elemento completamente diverso, ma è basato sullo stesso slancio dell'inizio del primo tempo della sonata, non del secondo tempo, soltanto che è stirato, cioè anziché essere un intervallo di quarta e di sesta, la sonata incominciava con... Qui è... Cioè, anziché... È così... Ma l'elemento è lo stesso e tra l'altro le note sono le stesse, si arriva sempre allo stesso fa. Queste sono le parentele sotterranee di Brahms. Passerei direttamente, per guadagnare tempo, perché è difficile presentarvi tre movimenti in un'unica puntata, all'ultimo ascolto che vi propongo del secondo movimento. Anzi, lo propongo e lo commento dopo. Ascoltiamo. Già parlando del primo movimento, avevo parlato dell'interesse di Brahms per mascherare i ritorni, cioè la ripresa. Perché la ripresa è qualcosa che ferma la musica e a Brahms interessa un flusso, ripeto, di trasformazione genetica degli elementi che non si deve arrestare. E allora si usano espedienti diversi. In questo caso è un espediente meraviglioso, cioè una specie di, diciamo, di trompe l'oreille, di inganno acustico. Quando avete sentito incominciare il pianoforte avete pensato che fosse la ripresa, cioè... eccetera, perché difatti è il tema iniziale, se non che siamo in una tonalità iperlontana da quella del secondo movimento, cioè la tonalità deve essere la bemolle maggiore, qua siamo ben in mi maggiore. E allora cosa fa Brahms? Inizia il tema in una tonalità totalmente differente e poi chi ascolta pensa ecco la ripresa. Dopodiché fa una specie di nebbia di scala del pianoforte che arriva, che si sposta di registro, arriva nella regione giusta per la ripresa e fa una ripresa in un'altra tonalità. E siamo portati a pensare che sia la ripresa e invece no, perché siamo ancora in una tonalità diversa, siamo in do maggiore. A quel punto, alla terza volta, sì è vero, c'è il segnale importante del rientro del clarinetto, ma alla terza volta noi non ci crediamo più, e invece questa volta è veramente la ripresa che è arrivata al suo tono giusto di La bemolle maggiore. Dico solo una cosa tecnica, c'è un giro armonico che Brahms adora, che fa tantissime volte nell'ultimo periodo, che è appunto questo, è per i tecnici in ascolto il giro delle terze maggiori, mi maggiore, do maggiore, la bemolle maggiore. È la discesa per terze maggiori, sempre con una nota in comune, e si arriva al tono giusto, scivolando tra toni lontani accostati in questo modo. Dobbiamo passare direttamente al terzo movimento. Il terzo movimento avrebbe l'ambizione di essere uno scherzo, però intanto l'indicazione agogica già ci si mette sull'avviso che insomma non sarà proprio uno scherzo, si chiama Allegretto Grazioso. Ascoltiamo l'inizio. Come fare a non riconoscere in questo slancio iniziale di sesta questo? Anzi, con il ripiegamento poi di grado congiunto. La bemolle fa mi bemolle, aspetto ad andare avanti, la stessa cosa che era successa esattamente nella parte centrale del secondo movimento, quando aveva fatto notare che quella certa quarta era diventata una sesta, era esattamente tra l'altro le stesse note. Questo era l'elemento B del secondo movimento e, guarda caso, sono esattamente le stesse note del tema del terzo movimento, eccetera. Ma nella prosecuzione della cellula, in quello che ho suonato proprio adesso, questo, dovreste riconoscere esattamente una cellula del primo tempo. Attenzione. Attenzione adesso. Questo. Che tutto questo gioco di seconde e di terze alternate. Adesso ho suonato così, non sapete più se avevo suonato il terzo movimento o il primo. Adesso ho suonato il terzo movimento. La cellula poi è replicata. E ha soltanto questa codina, un po' scherzosa, che dà il tono, diciamo, dell'elemento. Dell'elemento di scherzo. Potrei dire altre cose di questo genere, ma forse divento noioso e troppo lungo, quindi mi bastano questi accenni. In realtà potrei andare avanti a mostrarvi relazioni tra tutti i movimenti, tra tutte le cellule all'infinito, ma ne basta qualcuno. Passiamo a una cosa che dovrebbe suonarvi come completamente diversa, e invece poi vediamo che cos'è. Siamo nel trio di questo, non so nemmeno chiamarlo scherzo, di questo terzo movimento allegretto grazioso, in cui Brahms si rivela come assolutamente viennese in questo elemento, come a volte succede in Brahms. Entriamo in una birreria di Vienna, ascoltiamolo. È vero che ci sono gli aspetti francesi sfumati di Brahms, ma poi ci sono gli aspetti della pinta di birra che vengono fuori pam piram pam para in questo modo. Però se lo guardiamo da vicino ci accorgiamo che cosa succede, da che nota è fatta questa cosa. Mi mire re re don don do si. Com'era il tema del secondo tempo? Mi mire re, re, do, e anche con il ribattuto, cioè è esattamente la stessa cellula del dolcissimo secondo tempo che viene trasformata rendendo isocrono il ribattuto, in modo che quel ribattuto che nel secondo tempo era, come dire, esitante, un po' mormorato, un po' come qualcuno che esita a fare il passo dopo, qua diventa... Ma è esattamente la stessa cellula. Quello che interessa a Brahms è essere sotterraneamente sempre in relazione e esteriormente sempre diverso. L'ambiguità, il gioco del, diciamo, non dico prenderci in giro, ma portarci nell'ascolto di cose che sembrano nuove e non lo sono, questa è la sua attitudine preferita. Ma c'è una cosa in più. Esattamente contrapposto a questo elemento pianistico c'è un clarinetto sotterraneo nel grave che fa una cosa di questo genere. Voi direte, chi l'ha mai sentito? Beh, vi dico che è esattamente, esattissimamente il moto contrario del tema iniziale, da qui. Da questo. È esattamente? Ma interamente fino al fine? Anche questi arpeggini? Erano quegli scherzetti del fare... Perché lo dico? Perché l'ennesima ambiguità è mettere in scena, permettetemi la semplificazione, la birreria viennese e usare in quel momento un artificio complesso del contrappunto quanto il moto contrario, ma siccome non lo vuole esibire lo mette nella regione grave al clarinetto dove forse nessuno se ne accorge che c'è, ma c'è, perché il comporre di Brahms è un comporre complesso fatto di relazioni che non devono per forza essere sentite. Il tempo fugge e quindi che cosa vi posso far ascoltare? Passiamo all'ascolto successivo del terzo movimento. Questa è la parte centrale è il B del trio, cioè di quella zona che ho chiamato da birreria. Perché ve l'ho fatto ascoltare? Perché intanto è dolcissimo, quindi è un contrasto di clima nettissimo, ma soprattutto è una scala discendente, tutto con la sincope tra le due mani del pianoforte. La sincope è a distanza di terza, la scala superiore è quella della mano sinistra, diventa così insomma, però le due scale sono e quella della sinistra. Vi dovreste ricordare che avevo parlato, per chi avesse ascoltato la puntata sul primo tempo, avevo fatto ascoltare un elemento di sviluppo che era esattamente una scala discendente esattamente di la bemolle maggiore, cioè queste stesse note, e che col canone del clarinetto diventavano le terze. È esattamente questo che è scivolato dal primo movimento fino al terzo movimento. Queste sono relazioni sotterranee tra i vari elementi. Direi che possiamo con ciò passare rapidamente al quarto movimento. Ascoltiamo nell'inizio soltanto. Voi direte, cosa c'entra questo? Adesso non mi dirà mica che è in relazione ai primi movimenti. Beh, con quale cellula inizia? A parte la perorazione del... che sono delle trombe che squillano, la cellula da cui inizia poi veramente il pianoforte, io lo suono lentamente, questo, è esattamente il moto contrario di tutte quelle cellule che hanno fatto in decine di modi, insomma, nel terzo movimento era questa. Questa cellula rovesciata diventa... sono le stesse cellule di seconda e di terza alternate che però in questo momento sono messe veloci in questo modo. Persino in un tempo con un clima completamente diverso c'è la relazione sotterranea delle cellule. Ve ne do l'ultimo esempio col prossimo ascolto. Siamo nel centro del quarto movimento, questa è una specie di secondo tema, e questo elemento del pianoforte che cosa fa? Se io togliessi questo re bemolle, cioè anziché fare, si diventerebbe, è esattamente l'inizio della sonata. Inserendo quel re bemolle ha tolto l'unica anomalia, quella sonata iniziava con un salto di quarta, che è un intervallo che non c'entra con la sonata, erano tutte seconde e terze, mettendo un re bemolle diventa una seconda e una terza. E quindi in coda di sonata riempie quell'unica anomalia, il secondo tema del quarto movimento è di fatto una variante del tema della sonata, siamo all'ultimo elemento tematico della sonata che riprende e varia con le stesse note, attenzione, è lo stesso do, fa, mi, do, re. Questa era la sonata e lui fa, eccetera. Questo è il mondo delle relazioni brahmsiane che legano tutto a tutto, dove ogni cellula diventa un'altra, ma il gioco è che quella cellula trasformandosi diventa un altro elemento tematico con un clima completamente diverso. È il mondo delle relazioni misteriose, simboliste, simboliche, di una musica che è tutta in relazione, ma è tutta frantumata ed è tutta unita allo stesso tempo. Segno di un comporre profondissimamente, ripeto, progettato. È il fascino del compositore che controlla il suo comporre, suscitando l'emozione e la commozione di chi ascolta. Grazie e buon ascolto del totale della sonata nel sito di Radio 3. Radio 3 Lezioni di musica a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare la sonata opera 120 numero 1 per clarinetto e pianoforte di Johannes Brahms dal sito di Radio 3 cliccando su Classica Radio 3.